quest'anno non cambiare. Stessa spiaggia, stesso mare, bisogna ascoltare due di denari come Assa e la Rossani. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rossani e Mauro Meazza. Portami dove non posso arrivare, dove si smette qualsiasi pudore. Fammi sentire che cosa vuol dire viaggiare leggeri. Molto leggeri, molto leggeri. Bisognerà viaggiare perché? Perché da venerdì 26 giugno il trolley in aereo è diventato un oggetto complesso da gestire. Che è successo? È successo che da venerdì 26, appunto, sostanzialmente è vietato portarsi il bagaglio a mano a bordo, perché si vogliono evitare assembramenti nel momento in cui si cerca di mettere trolley a volte decisamente robusti, diciamo, nelle cappelliere, e allora sono ammessi solo trolley di piccole dimensioni, di quelli che possono appunto essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Dove abbiamo tratto tutto questo? Una nota dell'ENAC, che è stata diffusa appunto il 25 giugno, che ha confermato queste, quali sono le condizioni per poter derogare all'obbligo di distanziamento, cioè mantenere un metro tra un passeggero e l'altro. Questo si può derogare a condizione che l'impianto di condizionamento dell'aereo sia particolarmente efficiente, quindi gli aerei potranno viaggiare a pieno carico, però il bagaglio a mano, niente cappelliera per il bagaglio a mano, solo bagagli sotto il sedile. E in questo modo appunto è stato precisato dall'ENAC quali sono stati precisati quali sono i limiti per viaggiare. Serve poi, importante, come spesso di questi tempi, l'autocertificazione, cioè bisognerà attestare di non aver avuto contatti stretti con persone affette da coronavirus negli ultimi 2 giorni, e quindi bisognerà autodichiarare questa parte per potersi imbarcare, naturalmente senza un trolley troppo ingombrante. Deborah, spero di essere stato chiaro, buongiorno. Buongiorno anche a voi, sei stato molto chiaro, io qui ti ascoltavo religiosamente in attesa di mettere a posto il collegamento tra noi, che questa mattina ha fatto qualche capriccio. Mi senti bene adesso? Qual è forte la qualità? Forte e chiaro, cara Deborah. È importante la qualità del nostro collegamento stamattina, perché dobbiamo parlare come tema di approfondimento di un tema estremamente importante. Settimana prossima parte il collocamento del BTP Futura, e siccome molti ascoltatori ci stanno scrivendo da diverso tempo per avere chiarimenti e dettagli su questa emissione esclusivamente per il popolo dei piccoli risparmiatori, tutta destinata a finanziare l'emergenza Covid, eccoci qua subito pronti noi come dei soldatini, e spiegheremo tutto quello che c'è da sapere su questa importante operazione. Avremo naturalmente ospiti come sempre di valore mondiale. E abbiamo però, essendo lunedì, prima una parte di Meteo Borsa e un po' di Giornale Radio del Risparmio, che è tutto incentrato su questioni di trasporti. Però ricordo intanto i numeri di telefono se volete contattarci, farci delle domande a proposito appunto del BTP Futura, come funziona, ne illustreremo le caratteristiche. Naturalmente precisiamo sempre, Deborah, noi non diamo consigli di investimento, ci mancherebbe altro, no. Ma vogliamo invece illustrarvi molto molto chiaramente come è fatto questo titolo di Stato, perché è parecchio diverso, mi azzarderei a dire, da tutti quelli che lo hanno preceduto. Italia, sì. Quindi bisogna un pochino comprenderne il funzionamento e poi valutarne, se del caso, la convenienza per sé. 800 24 00 24 è il nostro numero verde per porre domande in diretta. SMS e WhatsApp li vediamo se componete 349 238 6666. Vedo dall'altra parte del vetro già un attento Carmelo Lauricella, dietro di lui intento a far funzionare tutto il programma Danilo Di Trani, che questa mattina è abbastanza esultante come me del resto, visto il decorso ieri proprio in ultimo, in extremis, della nostra squadra del cuore. E poi c'è quel portento di Marco Lombardo che continua a vigilare, a vegliare su di noi, cara Deborah. Partirei subito con Meteo Borsa, se tu naturalmente sei d'accordo. Come potrei essere in disaccordo con te? Via! Meteo Borsa. altro, caro Mauro. Di mercati finanziari parleremo anche un pochino domani pomeriggio, che ne dici, nella nostra Digital Roundtable Investire Informati. Peraltro in scaletta non lo abbiamo messo, ma è ben presente nella nostra testa l'appuntamento, che potrà essere seguito in streaming da tutti gli ascoltatori che, andando sul sito di Radio 24 nel link Iniziative Speciali, possono già accreditarsi e prenotarsi per seguirlo. A partire dalle 15 noi saremo alla sede del Sole 24 Ore e voi sarete tutti comodamente a casa a seguire i nostri lavori. È tutto gratuito, vogliamo anche precisarlo, e abbiamo scomodato un bel po' di esperti, docenti, operatori del risparmio. Insomma, a loro chiederemo, li assedieremo con una e una sola domanda declinata più volte: ma che dobbiamo fare con questo Covid, con questo coronavirus che ci sta così mettendo a dura prova anche come risparmiatori, non solo come cittadini? Infatti, tra l'altro, guarda Mauro, c'è la società che è rappresentata questa mattina, ha presentato, ha diffuso proprio poche ore fa un rapporto molto interessante proprio sull'impatto del Covid sull'economia e l'andamento dei mercati finanziari, quindi direi che abbiamo fatto molto bene ad invitare quest'oggi Marco Piersimoni, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management. Ben trovato e buongiorno. Buongiorno a tutti. Tra l'altro, stamattina c'è stato pure l'attacco terroristico ad una borsa, quella del Pakistan, alla borsa di Karachi, ma vedo che gli operatori finanziari di tutto il resto del mondo se ne stanno abbastanza disinteressando, e dopo una partenza negativa per gli indici europei adesso stanno tutti tentando di cambiare direzione. Il cambiamento di direzione è particolarmente forte per Milano, che guadagna adesso lo 0,6%. La settimana scorsa è stata un po' incerta, Mauro, Wall Street si è portata ai minimi da 2 settimane, ma come nel weekend ha scritto il Sole 24 Ore, complessivamente abbiamo archiviato un trimestre proprio brillante, del tutto scollegato al quadro macroeconomico che il Covid sta generando. Io direi con Piersimoni di partire proprio, se sei d'accordo, con una riflessione su questo argomento. Certamente. Che peraltro ci portiamo bene anche domani pomeriggio. Allora Piersimoni, questo strabismo dei mercati, no, voi so che dite decoupling, però insomma è che il mercato guarda da una parte e l'economia reale da un'altra, sembra. Sembra proprio di sì. L'economia reale effettivamente non se la passa bene, questo è ovvio. In particolare, settimana scorsa è arrivato il Fondo Monetario Internazionale, che, se vuoi, ha aggiunto pessimismo al pessimismo, ossia ha comunicato delle previsioni di crescita terribili, e delle previsioni di crescita le quali sono molto, ma molto peggiori di quanto lo stesso Fondo Monetario Internazionale avesse comunicato solo poche settimane prima. Per cui abbiamo delle previsioni di crescita atroci o poco meno, e dei mercati che sembrano effettivamente infischiarsene. Qual è la spiegazione? La spiegazione è duplice. Da un lato, i mercati tendono a guardare avanti, ossia i mercati credono, o forse meglio sperano, che questa tragedia economica duri poco, e per cui riescono a guardare oltre questo minimo terribile della crescita economica, sperando che nel 2021 le cose vadano meglio, o forse già sulla finire del 2020. In secondo luogo c'è il carburante delle banche centrali e il carburante, forse questa volta parimenti importante, anche dei governi e delle politiche fiscali. Per cui i mercati guardano la politica fiscale, guardano la politica monetaria, incrociano le dita, sperano che Covid passi, confidano o nei trattamenti medici, in un vaccino, e per questo abbiamo delle performance tutto sommato molto diverse dalla tragedia macroeconomica. Intanto i numeri della pandemia sono ancora clamorosi, in peggioramento, e questo peggioramento riguarda proprio quell'area che dal punto di vista economico ci interessa di più, gli Stati Uniti, alle prese peraltro anche con la partenza ormai della campagna elettorale, ma i numeri sono enormi e alcuni stati fanno anche fatica a far ripartire le attività economico-produttive. Quando questo succede in stati come la California, chiaramente abbiamo di fronte a noi un quadro preoccupante, per poi non parlare di quello che succede in alcune aree emergenti, Piersimoni, in India, in Brasile e chiaramente anche qua, dove soprattutto i sistemi sanitari sono molto poco emancipati, direi, è chiaro che il quadro si complica ancora di più. Ecco, voi di quali aree siete particolarmente preoccupati per quello che riguarda l'impatto economico del Covid? Ovviamente la risposta immediata è, dal punto di vista dell'impatto economico, sono gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti Covid ha funzionato in questo modo: ha attaccato prima le coste, ovviamente, in quanto più aperte al commercio, più aperte ai movimenti delle persone, per cui in particolare la costa est degli Stati Uniti, per cui quella di New York, Boston e della Florida. con ovviamente l'interferenza e l'intersezione con le decisioni politiche, nel senso che buona parte dei governatori della costa est, in particolare New York, sia il sindaco che lo Stato, sono democratici, hanno imposto delle misure di lockdown molto severe, le quali hanno funzionato. Gli altri stati, e in particolare quelli dell'America centrali, quelli del Midwest o anche stati economicamente importantissimi come il Texas, hanno nicchiato con il lockdown, ne hanno fatti di molto brevi. Passata l'onda a New York, erano convinti di esserne fuori. Mettici oltre a questo le proteste per George Floyd e per tutto quello che è successo, ha combinato cosa? Ha combinato il fatto che in America non siamo alla seconda ondata, ma siamo è la cresta lunga della prima ondata. Sì, che sta però mettendo in forte difficoltà alcuni stati a guida repubblicana, che non hanno voluto fare lockdown e che adesso forse si vedranno costretti a dover rimettere in piedi dei lockdown almeno parziali. Il sindaco di Houston e il governatore del Texas hanno chiesto ancora di richiudere le attività dei ristoranti e dei bar, per cui si inizia a ragionare purtroppo su un'eventuale necessità di lockdown. Che definire locali negli Stati Uniti non va bene, perché il Texas è un'economia enorme, sono 35 milioni di abitanti, per cui è uno stato europeo il Texas dal punto di vista economico, per cui il problema economico che io vedo è quello americano e non può essere un problema locale, è un problema statale con intersezioni politiche. Poi ci sarebbe tutta la vicenda europea, non solo dal punto di vista nostro, per cui ancora abbiamo questi tormenti, il MES sì, il MES no, e vedremo come usciremo da questa impasse, ma anche per la messa a punto del piano di recupero, del recovery plan. Oggi c'è, tra l'altro, se non mi sbaglio, un bilaterale tra Angela Merkel e Macron, giusto? Questo mi sembra... diciamo che potrebbe generare qualche incertezza per i mercati, Pier Simoni, oppure no, oppure sostanzialmente le cose sono abbastanza definite, nonostante i paesi cosiddetti frugali o frenatori, o insomma più così col braccino corto, verrebbe da dire. Sì, sì, effettivamente poi non ricordo chi tra i vari politici ricordava che i veri frugali, se non altro come cittadini, sono gli italiani, se uno guarda il debito privato, non di certo gli olandesi, per cui questa definizione dei frugal four, come direbbero gli inglesi, non è che mi appassiona. Il vertice Merkel-Macron, ma l'ultima volta che c'è stato il 18 maggio ha portato buono, non è che ha portato male. Comunque, al di là della cabala, il tema è questo: è chiaro che l'appuntamento grosso è quello del 18 luglio, c'è una proposta molto solida e con un'ampia convergenza, che è quella dell'Unione Europea, con i famosi 750 miliardi del Recovery Fund, che è una proposta che però deve essere ratificata dagli Stati membri, e c'è qualcuno, non solo i frugali, ma in particolare gli Stati dell'Europa dell'Est, perché sono loro che secondo me sono i più rumorosi dietro le quinte, i quali evidentemente non vedono di buon occhio questo movimento. Perché? Perché gli Stati dell'Europa dell'Est, grandi beneficiari dei sussidi europei, temono di non partecipare come prima a questa festa. Alcuni paesi, quelli più poveri dell'Unione Europea, partecipano alla grande, ad esempio la Croazia potrebbe ricevere sussidi pari al 35% del prodotto interno lordo, che è un numero davvero fondamentale, però c'è qualche dettaglio da limare per arrivare alla ratifica che dovrebbe arrivare il 18 luglio, per cui non mi stupiscono i vertici bilaterali tra Merkel e Macron, non mi stupiranno tutta una serie anche di accordi e di telefonate e di lavoro sottobanco che saranno inevitabili prima dello sblocco che dovrebbe arrivare proprio in data 18 luglio. Io sono abbastanza questa ottimista. È la diplomazia, è ottimista. Questa è la diplomazia. Io ringrazierei... Bene, ringrazierei Marco Piersimoni per essere stato con noi, peraltro, ma questo avremo modo poi di raccontarlo nel corso della settimana, nei miei vari aggiornamenti di borsa. Arriva anche in settimana un dato importante, che è quello sulla disoccupazione americana di giugno, e sarà interessante vedere se, come nell'ultima volta in cui questo dato è stato rilasciato, ci sarà questo enorme spread, discrepanza, difformità fra le previsioni degli analisti e gli economisti e poi il dato effettivamente rilasciato appunto dall'amministrazione americana. Grazie a Marco Piersimoni e buona giornata, presto. Buona giornata. Qualche notiziola in breve, Mauro, che dici? Si parte? Molto telegrafici con il nostro giornale radio del risparmio. Ci dicono spesso di lavarci le mani, ma poi ci ascoltiamo Meazzero Shani. cara Deborah. È andato in Liguria? Sei andato in Liguria nel weekend? Ho rinunciato. No, come mai? Ma perché avevo paura di non rientrare in tempo sotto qui. Una galleria? Non volevo rischiare di ritardare qui il rientro a Radio 24, cara Deborah. Esatto. Allora, qui sì, ci sforziamo di drammatizzare, però effettivamente, insomma, fino a poche settimane fa non ci potevamo muovere. Adesso in teoria ci potremmo muovere, però, allora, treni bloccati a Milano Centrale per la folla. Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, ha detto ora basta, andare in vacanza nel fine settimana non può diventare un problema di ordine pubblico, per favore aumentate i Frecciarossa da Lombardia a Piemonte per le riviere di Ponente e di Levante della Liguria. Poi ci sono tutti i disagi per quanto riguarda la rete autostradale, ne riferiamo praticamente ogni ora con i nostri collegamenti appunto sulla viabilità. E poi ci sono anche altre cose, Deborah, che riguardano il trasporti. Vuoi dire tu sì. La prossima, prego? Sì, questa è interessante perché sai, l'utilizzo di Flixbus è stato molto gettonato negli ultimi anni perché insomma sono questi autobus che viaggiano da una parte all'altra, non solo dell'Italia ma di tutta Europa, a costi molto bassi e quindi, come dire, un mezzo di trasporto molto utilizzato da chi ha in genere dei budget ridotti per viaggiare, soprattutto dai ragazzi, ma anche questa società è entrata nel mirino dell'antitrust, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. L'autorità garante della concorrenza, appunto, ha avviato questo procedimento intimando al gruppo la sospensione immediata di comportamenti scorretti, perché la società avrebbe prima permesso la vendita online di biglietti per viaggi da effettuare nel periodo di lockdown, durante il quale era limitato o vietata la circolazione su tutto il territorio italiano. Poi ha cancellato gli stessi in virtù di questi provvedimenti governativi, ma non ha fornito assistenza adeguata ed informazione adeguata ai passeggeri che avevano poi in mano questi biglietti. Quindi non ha offerto né rimborsi monetari né voucher a copertura di quanto speso. Insomma, ci sembra un comportamento un pochino discutibile e che ovviamente l'antitrust vuole sanzionare, ma intanto ha messo un riflettore, appunto ha posto un riflettore sopra questo comportamento. E invece per chi va in moto, che novità ci sono? E per chi va in moto invece ci sarà da pagare lo sconto dell'RC famiglia, come dire. Allora, ti ricordi che Maurizio Caprino, che è uno dei maggiori esegeti del codice della strada che siano esistenti al mondo proprio, Maurizio Caprino aveva detto in diverse occasioni, venendo anche da ultimo qui a Due di Denari, attenzione perché l'RC cosiddetto di famiglia, che consente di godere della miglior classe per tutti i mezzi, però da qualche altra parte uscirà con dei rincari. Ecco qui, oggi il Sole 24 Ore riferisce appunto polizze RC più care per 2 milioni di moto, 2 milioni di moto e motorini che pagano il conto della polizza famiglia che dovrebbe favorirli. Questo scrive Maurizio Caprino, dice si era d'altra parte capito subito che la novità, soprattutto per allargare le due ruote, il diritto di ottenere la stessa classe, rischiava di essere neutralizzata dai rincari. E infatti, secondo alcuni dati elaborati da Sole 24 Ore provenienti dal portale segugio.it, ebbene, si segnala un aumento deciso proprio per le due ruote. Tutti i particolari sul Sole 24 Ore, dove peraltro si trova anche, cara Deborah? Si trova anche questo sondaggio che è stato effettuato per conto appunto del Sole 24 Ore da Noto Sondaggi, da Antonio Noto, che poi firma anche il commento a margine dei risultati di questa inchiesta, di questo sondaggio. Con il perdurare della crisi, ci dice questa rilevazione, il 30% del campione degli italiani appunto intervistati teme di avere a breve difficoltà per pagare le spese per la casa, la rata del mutuo, il canone di affitto, il condominio. Il 32% di questo campione è preoccupato di non poter sostenere le spese mediche, mentre il 34% ha già ridotto in maniera drastica. Questa è una voce che generalmente quando la raccontiamo a me preoccupa sempre molto, gli acquisti non alimentari, e il 20% già dichiara di consumare meno cibo, e quindi insomma si preannunciano dei momenti complicati per le famiglie italiane. C'è anche un commento rispetto alle intenzioni di vacanza, ma le prossime vacanze saranno molto condizionate dall'emergenza economica e sanitaria. Solo il 26% del campione appunto stima che trascorrerà tra luglio e settembre almeno una notte fuori casa per turismo. Dovremmo far compagnia molto a questi ascoltatori, Mauro. Direi che noi ci impegneremo molto con i nostri argomenti, ma sono già le 11:28. Siccome il temone che dobbiamo affrontare è molto impegnativo, direi di fare subito la pausa e così cominciamo a breve. Che ne pensi? Ma certo, le borse. Pecunia non ho letto. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Due di Denari. Sono dentro anch'io, io ci sono dentro anch'io, io ci sono dentro anch'io, e abbiamo lo stesso, voglio decidere anch'io, perché abbiamo lo stesso futuro. Lo stesso futuro, però. Futura. Qui con Marco Lombardo. Marco Lombardo, abbiamo detto il portento di Marco Lombardo, che poi sai che sarà anche l'assistente al programma del Serpente Corallo, ha sbaragliato la concorrenza proprio. Allora, Ma c'era stato un concorso? Guarda, c'era una fila, proprio persone che addirittura si accapigliavano per poter fare da assistenti al Serpente Corallo. Diamo il benvenuto, anzi il bentornato a dir la verità, in trasmissione a due ospiti davvero di valore mondiale, lo diciamo sempre, però lo ribadiamo anche questa volta. Davide Iacovoni, capo della direzione del debito pubblico al Ministero dell'Economia, buongiorno dottor Iacovoni. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. E poi c'è con noi anche Antonio Cesarano, che è Chief Global Strategist di Intermonte SIM, buongiorno dottor Cesarano. Buongiorno a voi radioascoltatori. Cara Deborah, cosa vuoi sapere del BTP Futura? Chiedi tutto quello che vuoi perché abbiamo la possibilità di chiarire il tutto. Facciamo una cosa allora. Prego. Io direi che prima possiamo mettere un po' di puntini sulle i, come si dice in questo caso, mandare in onda la nostra scheda riepilogativa con i punti centrali di questa operazione, dopodiché da qui partiremo per approfondire appunto tutti i dettagli di questa emissione, chiaramente come sempre invitando i nostri ascoltatori a scriverci, a chiamarci all'800240024 o a scriverci al 349-238-6666. Non è un caso che mi sono confusa con lo scriverci, perché peraltro per questa operazione quest'anno per la prima volta il Ministero dell'Economia mette a disposizione una casella di posta elettronica interamente dedicata a tutte le persone che vorranno rivolgersi direttamente al Tesoro per avere informazioni su questa operazione. Intanto però qualche informazione l'abbiamo preparata anche noi. Riservato ai piccoli risparmiatori, ma adatto a tutte le taglie del risparmio. È il BTP Futura, che sarà disponibile da lunedì prossimo 6 luglio in banca, in posta e direttamente da internet con l'home banking. Zero commissioni, le cedole semestrali con tassi annui crescenti in uno schema 4-4-3. Il primo tasso di interesse salirà dopo i primi 4 anni, salirà anche dopo i successivi 3. Concluderà al decimo anno con un premio fedeltà che sarà collegato al prodotto interno lordo nazionale, con un minimo dell'1 e un massimo del 3%. Chissà, chissà domani. Come il BTP Italia, anche il BTP Futura è dedicato all'emergenza coronavirus. La raccolta è infatti destinata agli aiuti per le famiglie e le imprese colpite dalla crisi dovuta alla pandemia. Le indennità, i crediti d'imposta, le misure di sostegno al reddito per dipendenti e autonomi sono le voci alle quali saranno indirizzate le risorse del BTP Futura. Cara Deborah, il BTP Futura è un BTP di debutti. Io vorrei cercare di riassumerli tutti, cominciando proprio con Davide Iacovoni, il capo della direzione del debito pubblico al Ministero dell'Economia. È un BTP di debutti, tu hai già ricordato, per la prima volta una casella di posta elettronica, ma poi ci sono anche delle FAQ, delle domande frequenti e delle risposte naturalmente a queste domande frequenti che appunto il Ministero ha deciso di mettere sul sito a disposizione dei risparmiatori. E poi che altre particolarità ci sono in questo BTP Futura, dottor Iacovoni? Sì, intanto congratulazioni per la scheda perché era già particolarmente esaustiva. Grazie. Diciamo il titolo ha delle caratteristiche che sono già state specificate, quindi è un titolo con delle cedole crescenti ma predeterminate, quindi diciamo già venerdì prossimo verrà data la sequenza delle cedole minime che saranno garantite su un orizzonte temporale appunto di 10 anni. Con questa tempistica, cioè, ci sarà una prima cedola per i primi 4 anni, una seconda cedola più elevata per i secondi 3 anni e una terza cedola ancora più elevata per gli ultimi 3 anni. Dopodiché chi sottoscrive questo titolo nei giorni di collocamento, che appunto venivano ricordati dal 6 al 10 luglio, e mantiene questo titolo fino alla scadenza, avrà questo premio che, a differenza di altri strumenti, in particolare il BTP Italia, è un premio non fisso, nel senso che ha un minimo fissato all'1% del capitale nominale sottoscritto all'emissione, ma questo 1% potrà essere elevato in funzione dell'andamento della crescita nominale del PIL italiano durante la vita del titolo. Quindi quello che andremo a fare è a fare un calcolo della media dei tassi di crescita annuali nominali del PIL italiano a partire, questo è importante ribadirlo, dal prossimo anno, quindi la crescita del 2021 rispetto al 2020, fino ad arrivare all'ultimo anno che sarà la crescita del 2029 rispetto alla crescita del 2028 e a luglio 2030 verrà erogato questo premio. È importante ribadire un concetto che quanto riportato nelle FAQ, come voi giustamente citavate prima, le Frequently Asked Question sul sito del Ministero, riporta un esempio di calcolo, ma è importante ribadire che quello che trovate lì è esclusivamente un esempio di calcolo, siccome qualche giorno fa era uscito un articolo, mi pare sul Sole, che riportava come questa fosse la simulazione del MEF per i prossimi 10 anni, e ovviamente non è così, quello è semplicemente un esempio di calcolo per consentire al risparmiatore di capire esattamente come deve essere elaborato il computo per identificare questo premio a scadenza. Faccio per esempio notare che noi quest'anno purtroppo avremo una situazione di PIL nominale in decrescita importante rispetto al 2019, ma chiaramente c'è un fattore positivo che, ossia, l'anno prossimo del 2021 la crescita non potrà che essere particolarmente più elevata rispetto a quella del 2020. Io per esempio ricordo che nell'ultimo programma di stabilità, il DEF pubblicato dal Ministero ad aprile, si prevedeva una crescita del 2021 rispetto al 2020 del 6,1%, che è un dato abbastanza inedito, no? Diciamo, per la crescita italiana dell'ultimo ventennio, l'ultimo trentennio. Quindi è importante sapere che per esempio la crescita 2021 rispetto al 2020 entrerà nella media del calcolo con cui appunto andare a identificare il premio che verrà erogato del luglio del 2030. Ecco, non so se in tutto questo abbiamo ricordato, Deborah, le cedole sono semestrali, quindi tutti questi calcoli che ci ha spiegato il dottor Iacovoni poi daranno origine a pagamenti di cedole, quindi ogni 6 mesi. Per quanto riguarda le FAQ, adesso naturalmente metto sul Twitter subito l'indirizzo, certo, il link dove si trovano le domande sul sito del Ministero dell'Economia. Prego, Deborah. Volevo insistere per un attimo col dottor Iacovoni, se me lo consente, perché ho intuito essere un aspetto di grande curiosità sia tra il pubblico ma anche, le devo dire la verità, fra gli operatori finanziari. Il tema del flusso cedolare, no? Il meccanismo del 4-3-3, ma le tre cedole appunto che verranno distribuite in questo decennio, che avranno questo meccanismo di crescita crescente per l'appunto, sarà un meccanismo che vedrà la terza cedola erogata nell'ultima parte della vita del titolo particolarmente alta, proprio per trattenere più a lungo possibile i risparmiatori. Dottor Iacovoni, avete anche, come dire, in testa di portare avanti una strategia di questo tipo, o comunque il criterio di fissare il flusso cedolare sarà diverso? Non so se ha capito quello che le voglio fare. Sì, è chiaro. Noi quello che andremo a fare venerdì, perché venerdì daremo venerdì 3 luglio di questa settimana, andremo a comunicare la sequenza delle cedole minime, perché poi a fine collocamento verranno fissati appunto i tassi cedolari definitivi. I criteri che andremo ad adottare sostanzialmente saranno due: da un lato dovremo tenere conto del rendimento a scadenza di un BTP normale, cioè con cedole fisse che noi ordinariamente collochiamo sul mercato su una scadenza molto ravvicinata rispetto a quello del luglio del 2030. Quindi quello sarà sicuramente il primo riferimento che andremo a prendere. Naturalmente sarà un riferimento puntuale, cioè dovremo analizzare l'andamento di questo BTP a tasso fisso 10 anni nel periodo, in questi giorni, diciamo. Quindi questo è un lavoro che verrà fatto per poi andare a identificare il nostro primo riferimento. Il secondo riferimento è chiaramente poi spalmare questo tasso di rendimento fisso invece su una sequenza cedolare che sarà crescente. E quindi vedremo poi diciamo venerdì quale sarà la sequenza più ottimale per consentire da un lato dare un interesse importante già per il primo periodo cedolare, cioè nella per prima i primi parte, quattro certo. anni. Esatto, ma naturalmente dovremo anche poi tenere in considerazione l'aspetto di attrarre l'investitore anche sulla scadenza. Mi lasci però dire che chi mantiene fino a scadenza poi avrà questo premio che diciamo dovrebbe essere un premio significativo, che ha appunto questo floccio, questo livello minimo pari al 2% del capitale nominale sottoscritto, ma che appunto poi potrebbe essere più elevato in funzione dell'andamento del PIL, e questo rappresenta una premialità importante che noi oggi non siamo in grado di predeterminare, quindi evidentemente non entrerà nel calcolo della sequenza delle cedole che andiamo a comunicare, però l'investitore deve sapere che quindi quelle cedole che oggi andrà a beneficiare in qualche modo saranno collegate all'andamento dei tassi BTP normali, ma deve anche sapere che a scadenza ha un premio che oggi noi non siamo in grado di prevedere e che non entra quindi nel calcolo di queste cedole. Quindi questo è un aspetto molto importante perché è completamente aggiuntivo, ecco, rispetto al normale BTP certo. di analoga scadenza. Mi lasci poi sottolineare questo aspetto che forse è un po' tecnico, cerco di esprimerlo nel modo più semplice possibile. Avendo questa struttura con cedole crescenti nel tempo, questo è un titolo che ha un carattere che noi chiamiamo in gergo tecnico di tipo difensivo, cioè può succedere naturalmente che una volta che noi abbiamo chiuso il collocamento i tassi di interesse di mercato possano salire per diverse ragioni. Sappiamo benissimo da matematica finanziaria che quando i tassi di interesse salgono i prezzi dei titoli già esistenti tendono a scendere, e questo chiaramente può essere un problema per coloro che hanno bisogno poi di vendere il titolo prima della scadenza. Questo titolo invece, siccome ha questa sequenza crescente di cedole, ha la capacità di vedere il suo prezzo di mercato ridursi di meno a fronte di un possibile incremento dei tassi di interesse. Quindi il confronto va fatto rispetto a un normale BTP a cedole fisse, la cui invece riduzione di prezzo sarebbe più elevata. Quindi con il BTP futura si è in qualche modo un po' più immunizzati rispetto alle oscillazioni dei tassi di interesse di mercato. Mentre d'altra parte, se i tassi di interesse dovessero scendere, cosa che chiaramente come emittente auspichiamo, quello che accade è che il prezzo sale, ma tende a salire di più del prezzo di un normale BTP a cedole fisse. Quindi questo penso sia un aspetto importante, lo chiamiamo appunto il carattere difensivo, che tende a tutelare chi oggi investe su questo strumento e magari, non so, tra 4, 5, 6 anni avrà bisogno di vendere il titolo. Naturalmente perderà il premio che avrebbe soltanto se detenesse il titolo fino a scadenza, ma sa di poter contare su una dinamica dei prezzi sottostanti più meno volatile, più stabile, che quindi consente poi di preservare quindi il valore dell'investimento nel tempo in misura considerevole. Grazie dottor Ricavoli, perché questa mi fatto capire su questo, è stato chiarissimo, ma guardi, dirò di più, questa spesso ci viene posto anche dagli ascoltatori: ma che succede se esco prima, possiamo prevedere l'andamento del titolo ragionevolmente, ovviamente. Quindi questa che lei ci ha spiegato è una caratteristica importante del BTP futura rispetto a questa domanda. Adesso invece abbiamo un attimo di interruzione per la viabilità, cioè il traffico. Di denari. Il futuro è un'ipotesi, forse il prossimo alibi che vuoi. Il futuro è una scusa. Va bene, Deborah. Allora, visto che abbiamo cominciato con Enrico Ruggeri, che è uno dei tuoi cantanti preferiti, possiamo rivelarlo. Lo so. Fai lo tu so. La io domanda. Glielo dicevo anche quando era con noi. Fai tu la domanda ad Antonio Cesarano. Sì, vai tu, dai. Certo. Allora, questo BTP Futura, dottor Cesarano, fa affidamento sul futuro del nostro paese dal punto di vista macroeconomico, sul PIL italiano. Dopo la caduta a doppia cifra a cui purtroppo assisteremo quest'anno, quest'anno, è chiaro che si punta ad un recupero altrettanto importante, lo vedremo prossimamente. Quindi tra voi operatori finanziari che tipo di riflessione state facendo su questo aspetto, ma anche su un altro importante, la sostenibilità del debito pubblico italiano, visto che da molti mesi ci viene incontro la Banca Centrale Europea? Sono anche questi dei punti di forza del BTP Futura? Purtroppo il tempo a nostra disposizione non è moltissimo, ma magari poi Cesarano la riportiamo con noi in un'altra puntata. Intanto le chiedo un commento rispetto a questi due aspetti. Sì, cerco di essere sintetico. Primo punto, sul tema delle prospettive PIL, qui abbiamo due elementi importanti. Il primo è quello che è in discussione in questo momento proprio dal lato della Commissione Europea, proprio il mese di luglio entrerà nel vivo la discussione, cioè il fondo di ripresa, il cosiddetto Recovery Fund, quello che per adesso è stato tracciato, disegnato per 750 miliardi di euro, di cui ad oggi l'Italia, la quota per l'Italia sarebbe di 170 miliardi di euro. Si tratta di investimenti che l'Italia poi dovrà effettuare per cercare di ristrutturare la sua economia su due filoni, green, verde e la parte digitale. E questi investimenti sono estremamente importanti per rendere credibile agli occhi di noi cittadini, ma anche degli investitori soprattutto, la possibilità che il virus, e mi ha propagato tante purtroppo cose non positive, ma può consentirci di ristrutturare, rinnovare la nostra economia per essere più produttivi e avere una crescita più forte nel medio termine. Quindi questo primo tema è importante come in prospettiva. Dall'altro, il PIL preso in considerazione dal titolo è il PIL nominale dal BTP Futura, quindi considera anche l'elemento inflazione. E qui le manovre delle banche centrali sono proprio finalizzate a cercare di fare in modo che l'inflazione ritorni un po' su, che non si vada nella spirale cosiddetta deflattiva, cioè addirittura i prezzi scendono, perché questo è un segnale che i consumi stanno riprendendo. E quindi abbiamo anche l'apporto delle manovre della banca centrale. Il Fondo Monetario per il prossimo anno stima per l'Italia, le ultimissime stime, un recupero della crescita del 6,3%, quindi anche leggermente superiore a quello che citava prima il dottor Jacoboni per quanto riguarda il nostro DEF in questo momento. Tema sostenibilità del debito. E qui chiaramente avere una prospettiva di recupero del PIL rende più sostenibile il debito. Più la macchina è attrezzata a camminare bene, quindi con un PIL che cammina, tanto più regge meglio il carico del PIL, del debito, un debito grosso che si avvicina intorno ai 2.500 miliardi di euro complessivi. Quindi è molto importante la sostenibilità del debito in funzione di quanto noi riusciremo ad essere credibili nell'investire questi soldi che arriveranno per ristrutturare la nostra economia. Ultimissima cosa, se poi questi soldi arriveranno dalla Commissione anche con tassi molto bassi o addirittura con finanziamenti a fondo perduto, è chiaro che anche il debito nel suo complesso si riduce come costo e si allunga come scadenza, come tempi quindi di rimborso, e questo è un elemento a favore della sostenibilità del debito. Su questo tema, tra l'altro, recentemente c'è stato già un test che abbiamo superato, a prescindere dal fatto se un paese come l'Italia o meno prenderà i soldi dal MES o meno, ma per poter anche solo porre il tema occorre superare questo test, e già è stato fatto e tutti i 19 paesi, compresa l'Italia, hanno superato questo test. Allora, Deborah, come puoi immaginare, le tasse sono sempre nei pensieri di tutti quanti, certo, compresi i miei. E allora un ascoltatore, anzi più di uno a dir la verità, ascoltatori e ascoltatrici chiedono qual è la tassazione. Io chiedo conferma a Jacoboni, ma voglio fare bella figura. Al 12,5% è più bassa, certo, è decisamente più bassa, è meno della metà di quanto normalmente si applica per invece i guadagni di borsa. 12,5% è la tassazione normale del titolo di Stato. E poi non ci sono commissioni all'acquisto durante il collocamento. Dottor Jacoboni, ho detto tutto giusto? Sì, assolutamente tutto giusto. Mi lasci anche ricordare che, come per tutti gli altri titoli di Stato, anche per questo strumento ci sarà l'esenzione dall'imposta di successione, quindi ove questo titolo entri in un asse ereditario, diciamo, su questa parte appunto dell'asse non Stato, e in caso del BTP Futura non si applicherebbe l'imposta di successione, quindi il regime è quello agevolato dei titoli di Stato. Prego, prego. No, no, mi scusi che non abbiamo forse più volte ricordato che l'emissione parte lunedì prossimo e fino al 10 c'è la possibilità appunto che il Ministero dell'Economia decida di chiudere in via anticipata appunto la sottoscrizione nel caso la raccolta fosse soddisfacente. Ma un'ultima domanda, dottor Iacovoni, purtroppo la risposta sarà breve perché il tempo è quasi terminato. Che garanzia abbiamo di liquidità di questo titolo sul mercato secondario una volta che sarà terminata la prima fase di collocamento? Perché in genere quando intervengono gli operatori istituzionali con degli importi estremamente importanti rendono più liquido questo mercato. Il fatto che sia fatto tutto di retail, secondo lei è un aspetto importante che... No, è una domanda corretta, molto, sì, una domanda molto opportuna. C'è naturalmente l'impegno dei collocatori, sono due dealer e due co-dealer, sul MOT, appunto la piattaforma di borsa italiana dedicata al segmento obbligazionario, in particolare quello di titoli di Stato, ci sarà l'impegno da parte di questi soggetti a garantire prezzi in acquisto e in vendita in continuazione a partire da martedì, perché ricordo che martedì 14 è il primo giorno di libera circolazione poi del titolo sul mercato, e quindi proprio nella strutturazione dello strumento è stato previsto un meccanismo di obbligazione da parte dei che sono coinvolti nel processo. Guardi, ci torniamo su questo aspetto lunedì prossimo perché tanto abbiamo un'altra puntata con lei e quindi se non avessero ben capito i nostri ascoltatori ci ritorniamo. Mauro, buona giornata. Buona giornata anche a te, Deborah. Due di Denari torna domani, ma a investire informati pure nel pomeriggio.